Che chiami il vento ed il cruel fame. Perfetto Johnson di Sacramento è un bandito da strada. Oh, non è vero, lo so, non è vero. Bada di non fidarti troppo un'altra volta. Non è vero. Questa notte la polpa è venuta a rubare. Ma no, non ha rubato, è vero, pure avrebbe potuto. Ha detto Nick che si era venuto a prendere questo sentiero. È vero. Sbagliato, quel sì è una linguaccia. Ma che momento intorno, che il bandito sia giunto. La sua donna! La sua donna! Che Nina! Nina Miguel Torino! Lo conosci? L'amante, quando capimmo d'essere giocati, traemmo dietro Castro prigioniero e prendemmo il sentier verso le palme. Eravamo aspettati, Nino era là, ci ha fatto vedere il suo ritratto. Ma te di che ridi? Oh, di nulla, di nulla. Oh, come niente in te che gli sei scelto Nino. Para, ora ragazzi è tardi, buonanotte. Vi lasciamo dormire. Grazie, ora son calma. Andiamo. Se volete, io resto. No, buonanotte. Buonanotte. lo fa. Ma non mi avrei urlato, sono la mia scappato, era ladro il mio nome da quando venni al mondo, ma finché mi sei mio padre, io non sapevo. Son sei mesi che mio padre morì. Sola ricchezza mia per la madre e per i fratelli all'animale, l'eredità paterna. Una masnada di banditi la strada, la gettai, era quello il mio destino, ma un giorno m'ho incontrata, ho sognato d'andare bene con voi, fu a caccia del tuo Johnson d'inferno. N'ho seguito la traccia, deve esser qui, dov'è? Oh, avete seccato con questo vostro Ramirez? Per Dio ne son certo, non può essere fuggito, non può essere che qua. E cercatelo dunque, rovistate, dove vi pare, e poi di notte Oh, son tutto nella sede di te. Arso e distrutto, ma sei vinto, t'avrò. Aspettate un momento. Che aspetti? Cerco un mazzo nuovo. Son pronto, Taia, a te. Due mani sopra tre. Quante? Due. E a che tu la adori. E un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva. Ora è la decisiva. Sì. Taglia. Che t'avrò fra le mie braccia. Te ne vedi, ti vinco! Presto già, perché te ho poche cose da fare. Che devo darvi? No! Alla mattia, vedo, ma gli chiedi dov'è? Presto già, mi lo chiedo perché no! Partita è per la casa.

quest'uomo perché sia dato alla comunità, faccia essa giustizia. Buona fortuna, oh mio bel gentiluomo. E così, Mr. Johnson, come va? Scusate se t'abbiamo disturbato. Pure che facciate presto! Oh, quanto a questo bastano a sbrigarci pochi minuti. È quello che desidero! E che desideran tutti, vero? Hai saccheggiato tutto il paese, affondato, allato, rubato e l'ucciso. No, la squadra di Monterrey bandito fu massacrata dalle facce gialle di quelle tue canaglie messicane. Pugnalaste alle spalle il povero Tommy. No, non è vero. Sì, non mi invece ad avvalle ucciso un vostro idiota. Assassino mai! Alla polca, quella notte venisti per rubare! Con gli occhi sorriso di minghia di serbar! Che lei ci ha rubato! Ladro, ladro! Non vuole dire la casse! Ladro, ladro! Risparmiate lo scherno della morte, non mi metto pensiero, e ben voi tutti lo sapete, visto siete un braccio, mi scoccia di mia mano. D'altro voglio parlarvi, libero e lontano soffri andiamo. No. necessario troppo le dobbiamo. E tu mio trino poi resigna a me. E dimmi anche tu, tu non scrivi le prigi. È necessario che dirà quel che vorrà. Il tuo buon i padroni siamo noi, andiamo. Il tuo buon andiamo, ragazzi. È necessario. Non lo vorrei. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。